Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Adesso si sono trovati questo goleador che è Salvini. A me andrebbe anche bene di fare il regista dietro Salvini. Io vorrei anche chiarire che attaccante goleador non significa capitano della squadra, chiaro? È chiaro, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è chiaro che il regista, il capitano è sempre Berlusconi, l'avete sentito, oggi aveva parlato, intervenuto alla presentazione dell'ennesimo libro di Bruno Vespa e alle domande che faceva Bruno Vespa sulla possibilità che Salvini, il segretario della Lega, possa guidare un centrodestra rinnovato, vedete, sembrava piuttosto favorevole, addirittura l'ha chiamato goleador, quindi uno che sa fare i gol e che lui sta studiando evidentemente con un certo interesse. Ne parleremo di questo argomento, parleremo anche del fatto che Berlusconi, fra le altre cose, oggi ha detto che sarebbe il miglior presidente della Repubblica. Su questo e sul resto potete naturalmente fare sempre i vostri commenti con due canali diversi, uno per gli sms che è il 349 238 6666, l'altro è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì in qualsiasi momento per voi. Molti altri argomenti, c'è anche una specie di giallo sul canone Rai. Sapete che ne abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi, quando era venuta al governo l'idea di mettere nella legge di stabilità la possibilità, anzi la norma che prevedeva di pagare il canone Rai per evitare l'evasione fiscale nella bolletta elettrica, direttamente nella bolletta elettrica. Bene, non si capisce se si è fatto un passo indietro, è slitta di un anno oppure no. È possibile che abbiano sentito il governo tutti i messaggi, abbiamo sentito Effetto Notte, tutti i messaggi contrari che erano arrivati una valanga nei giorni scorsi. Chi lo sa? Intanto vediamo anche il resto per quanto riguarda questa giornata. Jobs Act sì della Camera senza le opposizioni, PD spaccato, più di 30 dicono no. Forza Italia è stato aggiornato domani il comitato di presidenza, Berlusconi assicura il patto del Nazareno va avanti, potrei fare il regista a Salvini. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la presidente della Camera Boldrini dice è una strage che prosegue inesorabile, serve un profondo cambiamento culturale. Parlamento europeo, importante discorso del Papa oggi a Strasburgo. Stati Uniti, non è stato incriminato l'agente che uccise il 18enne nero a Ferguson, esplode la rivolta con incidenti e vandalismi. ISIS lapidati in Siria, due uomini accusati di essere gay. Canone Rai, Palazzo Chigi fa sapere che non rientrerà nella bolletta elettrica nella legge di stabilità, ma ancora non è chiarissimo. E per il calcio, nella partita di Champions, CSKA Mosca e Roma pareggiano 1-1. E partiamo quindi dalla politica. Oggi c'è stato il voto sulla riforma del lavoro, oggi a Montecitorio, tra le potrezze dell'opposizione e una pesante frattura all'interno del PD, ma senza ricorso alla fiducia da parte del governo. Quindi nel tardo pomeriggio c'è stato il sì dell'Aula della Camera al Jobs Act, il testo approvato a Montecitorio con 316 sì, 6 no e 5 astenuti, adesso torna al Senato. A favore hanno votato la maggioranza PD, Nuovo Centrodestra, Per l'Italia, Scelta Civica, hanno annunciato voto contrario Movimento 5 Stelle, Forza Italia, SEL e Lega, che poi però hanno abbandonato l'aula insieme a una trentina di deputati e deputati del PD. Il Jobs Act significa più tutele, più solidarietà e più lavoro, ha detto Matteo Renzi. Poi ne parleremo, ma vi ricordo che domani il Sole 24 Ore passa tutti i provvedimenti di questo disegno di legge sul lavoro al vaglio del Rating 24, cioè lo strumento di analisi del quotidiano che valuta l'efficacia effettiva e il grado di attuazione delle singole norme all'interno di questo disegno di legge. E rimanendo sulla politica, ci sono state varie dichiarazioni, anche vi dicevo di Silvio Berlusconi, intervenuto alla presentazione del libro di Bruno Vespa, ha detto che lui stesso sarebbe il miglior presidente della Repubblica, ma non ci pensa, e a proposito di Alfano ha detto: quando ci sono di mezzo rapporti personali è chiaro che il passato conta, quando c'è di mezzo la libertà di un paese e dei suoi cittadini, allora credo che sia un dovere per ciascuno buttarsi tradimenti e tutto il resto alle spalle e pensare positivamente alla libertà. Torneremo a parlare anche di questo. Intanto i dati economici che riguardano il nostro paese restano contrastanti. L'OCSE dice che l'economia italiana dovrebbe tornare alla crescita per la metà del 2015 e accelerare un po' nel 2016. Più cauta invece Moody's. Secondo l'agenzia di rating, l'Italia è uno dei paesi dell'Eurozona più esposti a un potenziale cambiamento nei flussi finanziari. E a Bruxelles oggi giornata molto importante ai fini dell'attesa svolta dall'austerità alla crescita. Dovrebbe arrivare l'ok di Juncker sugli investimenti e a proposito di Unione Europea, oggi il Papa ha fatto un lungo discorso all'Europarlamento di Strasburgo. Sentiamo un passaggio. A una Unione più estesa, più influente, sembra però affiancarsi l'immagine di un'Europa un po' invecchiata e compressa, che tende a sentirsi meno protagonista in un contesto che la guarda spesso con distacco, diffidenza e talvolta con sospetto. Nel rivolgermi a voi quest'oggi, a partire dalla mia vocazione di pastore, desidero indirizzare a tutti i cittadini europei un messaggio di speranza e di incoraggiamento. E oggi nel mondo si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I dati in Italia continuano a essere molto pesanti e molto preoccupanti. Un abito, una sciarpa o un simbolo rosso contro la violenza sulle donne. Lo hanno indossato deputate e deputati in aula alla Camera, dove in una pausa dell'esame del Jobs Act hanno preso la parola deputate di ogni schieramento e la presidente della Camera, Laura Boldrini. La violenza sulle donne, ha ricordato, non è un fatto privato, ma pubblico che coinvolge l'intera società, e ha invocato più impegno per la prevenzione. Striscioni, volantinaggi e dibattiti anche nelle scuole. E a lanciare ancora il suo messaggio, Lucia Annibali, l'avvocatessa fatta sfregiare dall'ex fidanzato. Tante volte le donne dicono basta, no? Però deve essere nel cervello e maturato anche nel cuore questo basta. Ed è proprio lì che probabilmente si diventa più, ancora più prede, no? Di quanto sia stato finora. Soprattutto è come nel diritto di avere giustizia, perché soprattutto per le vittime, cioè hanno diritto di avere una giustizia giusta. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci all'estero, negli Stati Uniti, calma apparente per il momento a Ferguson, in Missouri, la città dove c'è stata una conferenza stampa dei genitori del giovane afroamericano ucciso da un poliziotto che non è stato incriminato, ucciso l'agosto scorso. Questo procedimento è stato assolutamente ingiusto, ha detto l'avvocato della famiglia Brown dopo la notte di violenze che c'è stata in tutta America. Poi comunque ci colleghiamo con gli Stati Uniti per capire se la situazione davvero si è tranquillizzata. E poi in Nigeria oggi due giovanissime donne kamikaze hanno attaccato il mercato di Maiduguri con un bilancio drammaticamente provvisorio di oltre 45 morti. Avevano meno di 20 anni queste due giovani donne, e è una scia di sangue senza precedenti quella firmata dalle donne kamikaze, che ha lasciato decine di vittime sul terreno in Nigeria. E pare che ci possano essere tra queste donne, ci sono stati vari casi a partire da giugno, anche le povere studentesse, oltre 200, vi ricordate, rapite ad aprile scorso dal movimento integralista Boko Haram, legato al movimento jihadista più globale. Due giovani di 18 e 20 anni in Siria, due giovani uomini sono stati lapidati oggi dallo cosiddetto Stato Islamico ISIS perché accusati di aver avuto rapporti omosessuali, da notizia LONG, Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani. E torniamo in Italia per parlare del canone RAI. Il sottosegretario alle comunicazioni Antonello Giacomelli annuncia che il governo è pronto a presentare un emendamento alla legge di stabilità per inserire già da gennaio il canone RAI nella bolletta elettrica. Pochi minuti fa la frenata di Palazzo Chigi. La riflessione in atto per ridurre e semplificare il canone RAI è strategica, ma appare improbabile che l'ipotesi di mettere il canone in bolletta possa maturare entro questa legge di stabilità. Così spiegano le fonti all'agenzia di stampa. Eppure Giacomelli nell'intervista 24 Mattino era stato abbastanza chiaro. C'è un'evasione per cui siamo tra i primi in Europa, che è attorno ai 600 milioni, per un canone che è oggettivamente tra i più bassi in Europa. Questa situazione non è più tollerabile. Con questo strumento noi consideriamo di recuperare in modo pressoché totale l'evasione. Può darsi quindi sia solo una questione di tempi. Per adesso comunque gli italiani possono dormire sonni tranquilli. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è Renzo da Cortina che dice: per forza è saltato il canone RAI nella bolletta, e nel tutto il sud e il centro Italia non lo hanno mai pagato e mai lo pagheranno. Noi invece siamo una famiglia di fessi che lo paga da 50 anni. Beh, non è proprio così, Renzo, diciamo che è a macchia di leopardo chi paga e non paga. E tra l'altro adesso vedevo un'altra agenzia, dovrebbe esserci questa novità del canone nella bolletta da gennaio, ma non dentro la legge di stabilità. Vediamo se poi arrivano cose un po' più chiare in seguito. Occupiamoci anche di Ebola adesso con il primo caso, ne abbiamo parlato ieri, di italiano che è affetto da Ebola, in cura allo Spallanzani di Roma, il primo appunto che ha contratto il virus in Sierra Leone. Ha presentato febbre associata al brivido, malessere generale con iperemia congiuntivale. Questi sintomi del medico italiano ha contagiato dal virus Ebola in Sierra Leone, ora ricoverato allo Spallanzani di Roma, elencati da Emanuele Nicastri, infettivologo dell'istituto, secondo il quale comunque il paziente è in buone condizioni generali, oltre che vigile e collaborativo. Viene curato, ha spiegato il direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco Luca Pani, con una combinazione di 5 farmaci sperimentali autorizzati in procedura di emergenza, seguito da un'equipe di 30 persone, 15 medici e 15 infermieri volontari. Al professionista ricoverato non saranno consentite visite. La moglie, rimasta per ora in Sicilia, ha chiesto di fermare il circo mediatico intorno al marito, arrivato in barella chiusa allo Spallanzani di prima mattina, dopo un volo in condizioni di biocontenimento dalla Sierra Leone sino allo scalo di Pratica di Mare. Intanto, per fronteggiare le emergenze sanitarie e l'allarme Ebola, con un emendamento alla legge di stabilità, il governo ha stanziato 5 milioni di euro nel 2015 e altrettanti nel biennio successivo. La Lega Nord chiede al ministro Lorenzin di chiarire subito i motivi di questo finanziamento e riferire in Parlamento sui rischi di contagio in Italia, che il governo, sbotta il capogruppo in commissione bilancio Guidesi, ha sempre smentito sino ad oggi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sto guardando l'ultimo aggiornamento, sempre sulla questione del canone RAI. Lo strumento legislativo per inserire il canone RAI nella bolletta elettrica potrebbe essere un decreto legge, dopo la precisazione di Palazzo Chigi che non può intervenire già nella legge di stabilità, quindi potrebbe esserci da gennaio e con un decreto legge. Questo non è una cosa scampata. E intanto vediamo un po' che cosa ha combinato la Roma. Mi sembra nulla di buono contro la squadra di Mosca. Dario Ricci in Champions. Dobbiamo riavvolgere il nastro di questa partita partendo dall'ultimo minuto, Roberta, perché solo 1-1 per la Roma a Mosca contro CSKA nel gelo di Mosca, e pareggio che lascia l'amaro in bocca, perché al 43esimo Totti su calcio di punizione aveva portato in vantaggio i giallorossi. All'ultimo minuto è arrivata la beffa di Berezuschi, di vera e propria beffa, perché di fatto nell'ultimo assalto disperato il CSKA Mosca ha prodotto questo cross tagliato che nessuno è riuscito a deviare, ma che è finito alle spalle di De Sanctis. Quindi un 1-1 che lascia, sfortunatamente per la Roma, ancora aperto il discorso qualificazione, nel senso che un'eventuale vittoria avrebbe davvero portato i giallorossi vicinissimi agli ottavi. Ora Roma e CSKA hanno 5 punti e in questo momento sono raggiunte anche dal Manchester City, che è in vantaggio sul Bayern Monaco, che è già qualificato in virtù del gol al 21esimo su calcio di rigore di Aguero. Bayern Monaco che poi è anche in 10, perché nell'azione del rigore è stato espulso Benassia, che tra l'altro è ex romanista, chissà se si è voluto in qualche modo vendicare delle polemiche di quest'estate relative alla sua cessione. Ma no, non mi va di far troppo spionaggio calcistico, Roberta, però ci lasci con questo dubbio. Non so se riusciremo ad andare avanti con effetto notte, però grazie Dario Ricci. Questa è la partita, allora, Roma-Mosca 1-1, con appunto queste ottavi, questa qualificazione in bilico. Ci fermiamo brevemente per gli aggiornamenti, come sapete sempre, per chi sta viaggiando. Qualcuno dice al 349-238-6666 a proposito di Berlusconi, che ha detto sarei il miglior Presidente della Repubblica. Sì, il miglior Presidente della Repubblica delle banane, dice qualcuno. Enzo da Varese: Silvio Calciatore deve fare l'antidoping. A dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme. Paolo dice: coloro che non pagano non vogliono il canone in bolletta. Non so se è proprio così. Io per esempio lo pago, ma forse ci sono delle difficoltà proprio tecniche, burocratiche, però insomma capiremo. Sembra che questa cosa possa partire a gennaio. Clotilde dice: no, Berlusconi presidente della Repubblica, allora è vero che nel patto del Nazareno è previsto anche questo sconcio, al di là che sia uno sconcio o meno a seconda dei punti di vista. Non si sa se insomma sia previsto, non è probabile. Comunque vi riassumo le altre notizie. Il Jobs Act passa alla Camera, c'è stato il via libera, poi tornerà al Senato, strappo però della minoranza PD. Renzi dice significa più tutele e più lavoro, intanto il Cavaliere assicura, l'ex Cavaliere, il patto del Nazareno va avanti, non è rotto. Slitta il canone RAI in bolletta da 60 euro, tempi stretti, ci saranno nuovi emendamenti alla manovra, si va verso la fiducia alla Camera. Comunque vi dicevo che potrebbe partire questa cosa con un decreto legge da gennaio. Poi il monito di Moody's all'Italia, che dice vulnerabile, le riforme sono incomplete, l'Ocse dice dice ci sarà la crescita dal 2015, quindi dati un po' contrastanti. Scossa del Papa all'Unione Europea, bisogna ridare dignità e lavoro ai giovani. E poi non è stato incriminato negli Stati Uniti l'agente che uccise il giovane, il 18enne Michael Brown a Ferguson, quindi riesplode la rivolta. Poi ci collegheremo. Ebola, il medico italiano curato con un farmaco sperimentale, rabbia degli infermieri che dicono siamo pochi, e la moglie chiede stop al circo mediatico. E per la Champions abbiamo sentito la Roma beffata dal CSKA nel finale, Mosca, nel finale 1-1, la Roma sembrava in vantaggio, nell'ultimo minuto c'è stato il gol della squadra di Mosca. E adesso parliamo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La Presidente della Camera Boldrini ha parlato anche oggi di una strage che prosegue inesorabile, ha detto molte altre cose, ma già questa frase dice tutto. E dice tutto anche il rapporto EURES, di cui abbiamo parlato proprio qui a Fettonotte alcuni giorni fa, EURES, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, secondo il quale il 2013 ha rappresentato l'anno nero per le donne in Italia, più degli altri anni, insomma, nel senso che anche gli altri anni non è che siano stati granché, e neanche questo è iniziato perché sono già un centinaio le donne uccise, ma nel 2013 sono state 179 le vittime, quindi con un più 14% rispetto all'anno prima. Un femminicidio ogni 48 ore, quindi una donna uccisa ogni due giorni. Roma la città più violenta in assoluto, Torino è la seconda dopo la capitale per quanto riguarda le regioni, prima il Lazio e poi la Lombardia. E secondo la ricerca EURES le donne vengono uccise in due casi su tre, quindi quasi la totalità, per aver voluto interrompere la relazione con quel marito, con quel partner che poco tempo dopo si è trasformato in assassino. E l'EURES li chiama proprio femminicidi di possesso, no? Proprio come le cose fossero, le donne fossero una cosa di proprietà. Vorrei parlarne prima di tutto perché questa è una voce diversa dal solito, nel senso che si invitano sempre donne a parlare delle donne e degli uomini che li uccidono, ma questa è una storia particolare, quella di Damiano Rizzi, che saluto. Buonasera Damiano. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Che è fondatore e presidente di Sole Terre, che è un'organizzazione non governativa che ha la missione di innalzare gli standard di vita dei paesi poveri della terra, però è soprattutto l'autore, Damiano Rizzi, di un libro che si chiama La guerra a casa, ed è il libro in cui Damiano racconta l'omicidio della sorella Tiziana che è avvenuto l'anno scorso, luglio 2013, e di come poi sia nata Tiziana Vive. Damiano, riesce a raccontarci in breve il tuo caso, che poi è quello purtroppo di tantissime famiglie, di tantissime donne? In estrema sintesi, quello che è accaduto a Tiziana è sostanzialmente un omicidio, uno dei 179 casi, come lei ha appena ricordato, in cui appunto mia sorella, con un bambino di 2 anni e mezzo in casa, viene uccisa dal marito. E in questo femminicidio di possesso, anche in questo caso pare lei lo volesse lasciare. È un caso dove non ci sono denunce, cioè mia sorella non ha mai denunciato violenza, ed era, come dire, la coppia cosiddetta normale, no? Ma viene da subito spontanea una riflessione: se ogni 48 ore viene uccisa una donna, e quindi questa è la punta di un iceberg, di un fenomeno di violenza, c'è da chiedersi quanta violenza mascherata di normalità ci sia nelle famiglie italiane. E soprattutto ogni 48 ore viene uccisa una donna, ma non mi risulta che ogni 48 ore sia stato fatto qualcosa per comprendere e arginare poi il fenomeno, perché si ha difficoltà anche a evidenziare il problema, no? A cercare di comprenderlo nelle sue forme. Non esistono numeri dati dallo Stato, cioè anche questi numeri ogni 48 ore sono numeri ricavati dalla stampa, cioè prendendo i casi di cronaca si va a ricavare questi 179 casi, che poi sono storie, come dire, strazianti, dei veri e propri drammi. Però manca un osservatorio nazionale, per esempio, no? Che dia questi numeri, e quindi anche un'ufficialità di questi numeri. Manca soprattutto poi l'idea di poter agire per evitare che ogni 48 ore venga uccisa una donna. Quindi Damiano Rizzi, secondo lei anche una risposta inadeguata da parte delle istituzioni? Poi sentiremo una rappresentante delle istituzioni, del governo. Però Damiano, da uomo, A parte questa risposta che al momento sembra inadeguata, ma da uomo che cosa pensa di questo fenomeno? Cioè ci sono tantissimi uomini che continuano a negare che esista il femminicidio, che sono omicidi come gli altri e che non c'è nulla, nessuna categoria particolare, non c'è l'uomo che uccide la donna e in modo così reiterato ogni due giorni, ma semplicemente sono omicidi come gli altri, non hanno delle caratteristiche particolari, non sono di un sesso nei confronti dell'altro. Lei che cosa pensa rispetto a questo? Beh, intanto che non è vero, perché che non siano omicidi di un sesso nei confronti dell'altro, cioè non è vero, perché come dire, nella gran parte dei casi sono i mariti o gli ex compagni che uccidono appunto la donna, e molto spesso è stato appunto evidenziato anche dalla Società Italiana degli Psichiatri che soltanto un 3,6% ha patologie mentali. Quindi, se questo è vero, ce lo dice l'Associazione insomma degli Psichiatri Italiani, vuol dire che nella gran parte dei casi sono tutti delitti annunciati, frutti proprio di una cultura patriarcale, dove la donna è figa, non so come dire, cioè nella cultura dell'uomo la donna è figa prima ancora che essere donna. Questo è il modo con cui si tratta normalmente, ma non credo di non scandalizzare nessuno, perché nei luoghi di lavoro, anche nei più prestigiosi, sino al bar, la donna è prima di tutto oggetto sessuale, è roba, è tette, è sesso. E quindi, venendo a mancare la dimensione di relazione interindividuale, molto spesso per soggetti che non riescono a controllare gli impulsi ci sta anche tranquillamente l'omicidio. Che guardate, la cosa più agghiacciante è che l'omicidio non è l'atto più estremo in queste situazioni, è che dopo l'omicidio c'è ancora una parte di persone che ritengono che se l'uomo l'ha fatto è perché probabilmente lei rompeva i coglioni, ma in questo modo, cioè, esattamente come io lo sto dicendo, scusandomi con tutti gli ascoltatori che saranno irritati da queste parole, io sono francamente irritato dal fatto che ogni 48 ore venga uccisa una donna. Damiano Rizzi, detto da lei che un uomo fa ancora più effetto, ma è vero che poi dopo c'è anche il seguito di chi dice evidentemente avrà rotto, invece tra l'altro la gran parte di queste donne, come si diceva, cerca di lasciare il partner che usa violenza nei suoi confronti, ma questo poi lui non accetta. Ne vorrei parlare naturalmente anche con l'onorevole Giovanna Martelli, che saluto, ringrazio del collegamento. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Deputata del PD, consigliera del Presidente della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le pari opportunità. Allora, Rizzi parlava di una risposta inadeguata per il momento dalle istituzioni. Lei sta lavorando naturalmente non da sola su questo. C'è stata l'anno scorso, mi pare, la ratifica della Convenzione internazionale di Istanbul, una serie di altre cose, ma di concreto cosa si sta facendo? Beh, c'è stata la ratifica appunto della Convenzione, c'è stato un decreto legge proprio sul femminicidio e c'è un piano nazionale antiviolenza che stiamo preparando, che prevede diverse azioni. Una di queste azioni è proprio la protezione nei confronti delle donne che subiscono violenza da parte degli uomini. C'è tutta una parte dedicata anche alla prevenzione, e quando si parla di prevenzione si parla proprio dei comportamenti che diceva prima Damiano, no? Quindi il fatto che comunque ancora nella nostra società il ruolo della donna è un ruolo lasciato molto alla dimensione privata, questo fatto indebolisce particolarmente la donna e la rende davvero quasi fosse un oggetto di possesso. Insomma, questo è un'impostazione culturale che è assolutamente da contrastare, a partire da programmi educativi per le giovani generazioni. Certo. La violenza delle donne è una cosa da uomini, e la nostra campagna si chiama proprio Cose da Uomini. Questo è importante sottolinearlo, proprio per quello che dicevo prima e che sottolineava anche Damiano Rizzi. Ma mi chiedo, onorevole Martelli, allora quindi vuol dire che ci sono, dice, state facendo delle cose, dei passi concreti, ci sono dei finanziamenti adeguati, anche perché si tratta poi sempre anche di avere le coperture economiche, no, per i centri di prevenzione o di protezione delle donne, le tante che denunciano e che spesso si sentono abbandonate. Fra l'altro, anche sul piano educativo che citava lei, è possibile che, siccome quello che è necessario è naturalmente proteggere le donne, e poi un piano di prevenzione che consiste anche nell'educazione scolastica, è possibile davvero cambiare questa cultura già a cominciare dalle giovanissime generazioni? Sì, stiamo lavorando al piano, ci sono dei finanziamenti che abbiamo dedicato sia all'attuazione del piano che sarà operativo, pronto in gennaio, che sono appunto di 19 milioni di euro per la realizzazione del piano e 7 milioni di euro per il 2015 per il mantenimento dei centri antiviolenza. Le giovani generazioni sono c'è da fare un lavoro sia nei luoghi informali e quindi dove li frequentano, no? Quindi mi riferisco agli adolescenti, preadolescenti e anche a livello scolastico, immaginando più di costruire programmi scolastici che abbiano dentro la lettura di genere, una prospettiva di genere equilibrata tra il ruolo tra uomini e donne. Tra l'altro, non so se lei lo ha visto, onorevole Martelli, un sondaggio era riportato dalle agenzie secondo quale uno studente su cinque maschio confessa di aver picchiato qualche volta la fidanzata e che una studentessa su due sarebbe disposta a perdonare gli schiaffi. Quindi veramente va ribaltato tutto, no? In questo tipo, questo modo di pensare tra i giovani. Va ribaltato tutto. La nostra è una società che, ahimè, negli anni ha costruito stereotipi sia sul fronte maschile che sul fronte femminile, che sono assolutamente da contrastare. Uno dei nostri problemi, uno dei problemi più grandi della nostra società è non avere più limite. E quindi pur di non essere smentiti nel proprio essere, si arriva anche ad uccidere. E questo è l'elemento più pesante, ecco. Ora vi leggo un messaggio al quale vorrei possibilmente una risposta sintetica sia da Damiano Rizzi sia da lei, onorevole Martelli, che poi dobbiamo chiudere, ma proprio per dire tra i messaggi quali sono quelli che arrivano. Emanuele dice: con tutto il rispetto per il dolore di Rizzi, uno dei motivi per cui le donne sono esposte a queste violenze sta proprio nella distruzione della famiglia patriarcale, che ha tolto la donna alla difesa che un tempo aveva da parte dei suoi parenti maschi. Con l'emancipazione si è buttato via il bambino con l'acqua sporca. Emanuele probabilmente non sapeva cosa succedeva e succede ancora in certe famiglie, una certa ritardezza, e anche quelle in realtà più anche dove ci sono laureati e laureate, non è una questione così classista. Rizzi, proprio sinteticamente. Ma guardi, il consiglio di Emanuele, il secondo senso di Beauvoir, che spiega molto bene. Non ho capito, non si è capito, Rizzi. Il consiglio di Emanuele, sì. La lettura del libro Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, che spiega molto bene che l'identità femminile non deve essere costruita per sottrazione rispetto a quella maschile, e tante altre cose che fanno capire che la famiglia patriarcale non difende la donna perché i parenti la difendono. Cioè, questa è una cosa, insomma, che fa parte proprio della cultura patriarcale, dove l'uomo domina e la donna subisce. Grazie, perché grazie. Deve essere protetta, non so come dire, l'idea di una donna che debba essere protetta e che invece è discriminata al mondo perché le donne sono quelle che prendono meno soldi, quelle che è avanti, le più povere su tutto il pianeta. Cioè, questa è un'idea, appunto, che già da tanti anni è stata superata. Damiano Rizzi, io la ringrazio moltissimo, la ringrazio anche per la testimonianza e per quello che significa questa testimonianza come esempio. E onorevole Martelli, abbiamo proprio ancora pochi secondi se vuole rispondere all'ascoltatore. Sì, ma il problema, quanto sta succedendo sul tema della violenza delle donne è proprio frutto della società patriarcale. Cioè, la donna non ha bisogno di essere protetta, la donna ha bisogno di politiche che emancipano il ruolo femminile, che la tolgano finalmente, che tolgano le donne dalla relegazione della dimensione privata, dei parenti che la proteggono. Le donne devono avere ampi spazi nella politica, nella carriera, nelle professioni. Questo le rende autonome e le rende protagoniste della vita pubblica. Onorevole Martelli, io la ringrazio e ci aggiorneremo, perché le auguro buon lavoro soprattutto su quanto si sta facendo. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie Rizzi. Io direi c'è una pausa adesso, sì, e ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, guardavo tantissimi messaggi anche da parte di uomini che sono arrivati sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e poi c'è Elena che scrive anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte: oggi si parlerà della violenza e domani 26 novembre non importerà più a nessuno, che in parte purtroppo, anzi in buona parte è vero, ma non nel mio caso, non qui a Effetto Notte. Adesso parleremo anche di altri temi e intanto vi riassumo, se avete acceso la radio in questo momento, le notizie più importanti della giornata. Jobs Act sì della Camera, senza le opposizioni, PD spaccato, più di 30 dicono no. Forza Italia, è stato aggiornato domani il comitato di presidenza, Berlusconi assicura il patto del Nazareno va avanti, potrei fare il regista Salvini. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la presidente della Camera Boldrini dice una strage che prosegue inesorabile, serve un profondo cambiamento culturale. Al Parlamento europeo l'intervento del Papa a Strasburgo oggi ha fatto un lungo discorso, e poi Stati Uniti, non è stato incriminato l'agente che uccise il 18enne nero, a Ferguson riesplode la rivolta. E canone Rai, Palazzo Chigi fa sapere che non rientrerà nella legge di stabilità al pagarlo nella bolletta elettrica, probabilmente ci sarà un decreto legge da gennaio. Per il calcio, nella partita di Champions, la Mosca Roma pareggia 1-1 con CSKA Mosca e quindi sono in bilico la qualificazione per gli ottavi di finale. Parliamo adesso del Jobs Act con Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Ciao, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, oggi alla Camera è passato con 316 sì, 6 no e 5 astenuti, poi dovrà tornare al Senato. Tutti i partiti di opposizione prima hanno detto, dal Movimento 5 Stelle, a Sella, dalla Lega, Forza Italia, noi votiamo no, poi invece hanno lasciato l'Aula. Che significato ha tecnicamente questo, tra l'altro, Vincenzo? Sì, tra l'altro il significato è quello proprio di dare un messaggio chiaro al governo Renzi, ovvero il provvedimento è così sbagliato per noi, questa è l'idea di tutte le opposizioni, che addirittura non lo votiamo. A livello tecnico oggi in effetti non cambiava granché, perché sì, non c'erano evidentemente dei quorum necessari, minimi, per far passare il provvedimento, per cui la presenza o meno delle opposizioni in aula, quindi un voto contrario netto oppure abbandonare l'aula così come hanno fatto, non faceva grande differenza, non cambiava nulla, ma il messaggio è proprio quello di dare, di far passare un provvedimento con così pochi voti e deputati presenti, proprio per dare idea proprio della povertà a loro dire, quindi delle opposizioni del testo. Vincenzo, del però diciamo il dato più significativo è stato che, allora, ho visto numeri diversi, chi dice 29, chi 30, chi più di 30, chi 40, insomma deputati del PD che a loro volta non hanno votato, diciamo la spaccatura, questo è il dato più significativo, la spaccatura all'interno del PD. Il dato più significativo PD è sicuramente questo qui, ovvero il PD esce evidentemente con una forte divisione su un provvedimento così importante sul mondo del lavoro, che storicamente riguarda comunque il centro-sinistra. Adesso, al di là che i deputati e cosiddetti frondisti siano stati 30 o 40, si è parlato inizialmente di 40 deputati del PD contrari, perché 40 risultavano assenti al momento del voto. Poi, andando nello specifico, si è visto che molti deputati erano per esempio in trasferta, autorizzati proprio dal PD per missioni interne al Parlamento. Però ecco, torniamo al vero numero, che è quello di 30, per l'esattezza ci sono stati 29 firmatari di un documento che va a bocciare il Jobs Act, proprio perché dice è molto fumoso e vengono a diminuire le tutele nei confronti dei lavoratori e soprattutto dei neoassunti. A questo proposito, Vincenzo Miglietta, sentiamo uno degli esponenti della minoranza PD che ha firmato questo documento, che è Pippo Civati. Non si capisce perché noi dobbiamo costruire un racconto politico così smandato verso destra. Io leggevo ieri sera un tweet di Formigoni, qui ci sono molti lombardi che sanno che ci siamo sempre opposti a quel modello, che diceva: adesso si chiarisce perché 30 del PD non lo votano. Guarda, Formigoni si era chiarito anche prima che a voi piaceva e a noi no, però se piace a Formigoni, se Sacconi dice il mio sogno realizzato, se Berlusconi può lasciare in eredità il suo patrimonio politico elettorale a Renzi, questo è un problema per me, altrimenti non mi spiego che cosa abbiamo fatto in questi 20 vent'anni, gli incontri in tutte le piazze, in tutte le sale pubbliche, dal più piccolo paese alle grandi città, in cui abbiamo raccontato cose diverse. E quindi insiste la minoranza del PD che questo è un provvedimento di destra. Senti, ma al di là di questo, che adesso vedremo come proseguirà, Vincenzo Miglietta, poi c'è stato Forza Italia che doveva avere il comitato di presidenza oggi, no? Dopo il flop delle elezioni regionali, poi è stato un po' ufficioso quello di oggi, perché in realtà quello più importante ci sarà domani. Quello più importante ci sarà domani, e più una coda che vi sarà per l'esattezza giovedì, perché vi sono alcuni europarlamentari, tra questi Fitto, impegnati a Strasburgo, per cui evidentemente è necessario aspettare, soprattutto Fitto, che sappiamo ha messo un po' in discussione tutti i vertici di Forza Italia. Ma oggi, Roberta, è stato il giorno di Berlusconi, del grande ritorno di Berlusconi, nel solito appuntamento pre-natalizio con il libro di Vespa. Due gli elementi secondo me fondamentali dell'intervento oggi di Berlusconi: da una parte ha ribadito la sua adesione al patto del Nazareno, per cui da questa parte non vi saranno sorprese. Dall'altra però Berlusconi si rende conto che il fronte della Lega, la grande ascesa di Salvini, è un elemento con il quale è necessario fare i conti nel centrodestra, e da qui addirittura Berlusconi ha paragonato Salvini lui è bravo a segnare, io potrei fare il regista. E comunque Berlusconi ha detto: possiamo vincere noi del centrodestra solamente se facciamo una larga coalizione che tenga tutti dentro. Questo non è un elemento da non considerare, perché secondo me avrà poi effetti sulla legge elettorale che, ricordiamo, Renzi e Berlusconi stanno ancora mettendo a punto. Grazie Vincenzo Miglietta. Ciao Vincenzo. Grazie a te. Ciao, buona continuazione. Colleghiamoci adesso invece con gli Stati Uniti, con Marco Valsania, per capire come, se ci sono ancora proteste per quanto è successo nelle ultime ore, stanotte, nel senso, vi avevo detto che a Ferguson, città del Missouri, il gran giurì ha deciso di non incriminare il poliziotto che ad agosto aveva ucciso il 18enne Michael Brown, che è una cosa che ha creato naturalmente molto malcontento, proteste, perché si diceva questo giovane era inerme, era disarmato, il poliziotto l'ha ucciso, diventa una questione razzista, sono sempre i neri a farne le spese. Che succede, Marco Valsania? Sì, la situazione non è sicuramente archiviata, il caso non è chiuso, come si potrebbe dire. Nuove proteste sono in programma, oggi sono state sicuramente manifestazioni più pacifiche di quelle del corso della notte, sia a Ferguson che in altri sobborghi vicini di St. Louis e anche in altre città americane. Ci sono state vigilie di preghiera in chiese, in quartieri, e appunto tra ieri sera e oggi anche in altre città, da New York a Los Angeles. Però altre manifestazioni sono in programma stasera, e quindi è difficile sapere se non ci saranno ulteriori momenti di grave tensione, ulteriori scontri come già ci sono stati nella notte, perché la tensione rimane comunque alta nonostante gli appelli della stessa famiglia del giovane Michael Brown a mantenere manifestazioni pacifiche, anche per il rispetto della memoria del figlio. La famiglia di Brown ha comunque condannato duramente la decisione del gran giurì, ha definito il poliziotto comunque l'assassino del loro figlio, e ha definito appunto la decisione dal loro punto di vista corretta. Grazie Marco Valsania, intanto da New York, dagli Stati Uniti. Ciao Marco, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Adesso vedevo, prima di aggiornare chi viaggia, che Massimo D'Alema ha detto, a proposito del calo dell'affluenza alle elezioni regionali, il grande astensionismo, dice, è anche in parte perché le speranze di cambiamento cominciano a essere deluse. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Molto brevemente le notizie, con il Jobs Act che oggi è passato alla Camera, con le opposizioni che sono uscite dall'aula e con il PD spaccato. E poi, per quanto riguarda Forza Italia, Berlusconi che dice il patto nell'Azzareno tiene e dice che vedrebbe di buon occhio Salvini come leader del centrodestra, nel senso Salvini goleador e lui il capitano. Giornata internazionale oggi contro la violenza sulle donne. E poi, per quanto riguarda il calcio, Roma ha pareggiato 1-1 col CSKA Mosca in Champions. E ora l'Europa. Europa 24 notte. Oggi, dicevamo, c'è stata una visita lampo del Papa all'Europarlamento di Strasburgo, dove ha tenuto un lungo discorso in cui ha lanciato soprattutto un appello e un monito. L'Europa, dice, superi i tecnicismi e protegga i deboli. A una Unione più estesa, più influente, sembra però affiancarsi l'immagine di un'Europa un po' invecchiata e compressa, che tende a sentirsi meno protagonista in un contesto che la guarda spesso con distacco. Un'Europa stanca e invecchiata. Con queste parole Papa Francesco ha aperto il suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo. Un discorso che ha toccato tanti temi, soprattutto quello della dignità, del lavoro e della disparità tra chi ha troppo e chi non ha nulla. Da più parte si recava un'impressione generale di stanchezza, di invecchiamento, di un'Europa nonna e non più fertile e vivace. Per cui i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. A ciò si associano alcuni stili di vita un po' egoisti, caratterizzati da un'opulenza ormai insostenibile e spesso indifferente nei confronti del mondo circostante, soprattutto dei più poveri. Lavorare sul tema dell'ambiente, sulla dignità dell'uomo e sull'accoglienza dei migranti. Vi esorto a lavorare perché l'Europa riscopra la sua anima buona, ha sottolineato e concluso Papa Francesco, raccogliendo applausi e una standing ovation. Durante il suo discorso anche un riferimento forte alle radici religiose europee. Che sia l'Europa in grado di fare tesoro delle proprie radici religiose, ha detto il Papa, sapendone cogliere la ricchezza e le potenzialità. Sono convinto che un'Europa che sia in grado di fare tesoro delle proprie radici religiose, sapendone cogliere la ricchezza e la potenzialità, possa essere anche più facilmente immune ai tanti estremismi che dilagano nel mondo odierno, anche per il grande vuoto ideale a cui assistiamo nel cosiddetto Occidente, perché è proprio l'oblio di Dio e non la sua glorificazione a generare la violenza. Ad accogliere il Papa al suo ingresso al Parlamento europeo a Strasburgo, il presidente dell'Europarlamento Schulz. In mani le misure di sicurezza in città, oltre 1.000 agenti, molti di loro dei corpi speciali, posti di blocco, tutta la zona del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa off limits. Misura di sicurezza eccezionale dunque per una città che teme la minaccia sempre incombente dei fanatici dello Stato islamico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E saluto Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Carlo, intanto mi chiedo, ci sono precedenti recenti? Non mi ricordo di un Papa al Parlamento Europeo. Che... Recenti, risale al 1988, la visita di Giovanni Paolo II. Wojtyla. Wojtyla, ma insieme a questo, secondo me, voi avete fatto bene a dare quella parte, diciamo, in cui dice l'Europa nonna, l'Europa, diciamo, ripiegata su se stessa, perché nell'88, diciamo, ancora il muro di Berlino era in piedi, scricchiolava ma era in piedi, e l'Europa era centrale nella politica internazionale, nella difesa, era ancora, diciamo, nel suo insieme un'economia forte, trainante, sono passati 25 anni e questo mondo non esiste più. L'Europa è economicamente in grave crisi, politicamente, diciamo, è stretta tra un nuovo asse che è tra gli Stati Uniti e la Cina, diciamo così, quindi sta dicendo che l'Europa, il vecchio, è proprio in questo vecchio senso, continente, è proprio vero? Un vecchio continente in tutti i sensi, dove il mercato del lavoro è ancora poco elastico, dove c'è elastico senso per i giovani, cioè alcune zone d'Italia particolarmente in questo senso. E quindi, diciamo così, il Papa ha detto questo anche, diciamo, inquadrando dal punto di vista proprio sociale, inteso come dinamica sociale. In più ha detto appunto la dignità del lavoro e le migrazioni, gli altri due temi forti di cui ha parlato. Poi lui ha parlato in due occasioni, ha parlato al Parlamento Europeo e al Consiglio d'Europa, sì. in uno diciamo è più appunto l'Unione Europea, l'altro è più sui temi dei diritti umani, della pace, eccetera. I discorsi insomma, si sono intrecciati molto sui temi appunto che sono dal sociale alla pace, ma anche appunto alla dignità dell'uomo e quindi le radici dell'Europa. Avete messo in rilievo come la storia delle radici cristiane, no? Wojtyla era un po' anche, diciamo così, un papa polacco che veniva dalla profonda, diciamo, Europa cristiana. Questo è il primo papa non europeo da 12 secoli e sicuramente il primo papa che viene dalle Americhe. Quindi anche, come dire, interessante, curioso storicamente inquadrare come un papa di questa caratura, anche se proviene insomma, la sua famiglia, sono migranti italiani, va a dire all'Europa guardate che il nuovo mondo si sta muovendo in una maniera un po' diversa. Mentre voi stagnate, grazie, grazie Carlo Marroni. Grazie ciao Carlo, te, ciao. Ciao, buona serata. E con questo ci lasciamo per il momento, poi gli aggiornamenti tra pochissimo.